Convocati di Giovanni Capuano. Italia sì, Italia no, Italia pum, la strage è impunita. Puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Magari in qualche momento non siamo stati tutti d'accordo sul medico, sulla medicina, però i problemi stanno sul tavolo, dobbiamo soltanto avere la capacità di riprendere in mano le tessere di questo mosaico e metterle in ordine. Comando no, comando omicida. Prima Marotta diceva sarà difficile con una Lega spaccata andare avanti. Beh, chi perde dice questo. Quando sento parlare di Lotito capo del Club Italia è come se io, mantenendo la 7, diventassi capo della RAI, o peggio ancora Berlusconi. Credo che c'è a tutto un limite. Sì, primario dai! Quello che un po' lascia un po' perplessi dal nostro punto di vista è il superattivismo di un presidente come Lotito, che fa da tutor al candidato Tavecchio, che credo che una cosa sia abbastanza non solo impopolare ma anche unica nella storia della federazione italiana, e quindi sembra che ci siano interessi personali a discapito invece di quello che devono essere interessi collettivi. Cielo nella panza, viva il... Vedete, Vecchio è scivolato su una buccia di banana, ha detto una stupidaggine, no? Sai quante volte io ho pure detto stupidaggini? Ma da Vecchio si è espresso male, diciamo, il concetto che lui voleva esprimere era un concetto giusto, cioè, l'ha espresso male, e comunque è un uomo che sa riconoscere i propri errori, quindi rimedierà certamente. La Lega, 8 squadre, ma, che si sono ma questo lo dice lei che sotto, lo vedremo nell'urna. E comunque si ricordi sempre, una rondine non fa mai primavera. Oh, e dunque al massimo questa sera, a meno che qualche ribaltone nel segreto dell'urna non cambi tutto, il calcio italiano avrà un nuovo presidente, un nuovo governo, magari speriamo anche un nuovo programma. L'avete sentito, Antonio Matarrese? Antonio Matarrese, perché c'è anche lui a decidere chi sarà il prossimo presidente della Federcalcio. 800 24 00 24, da questo momento telefoni aperti, perché in questa giornata, che è una giornata cruciale per il futuro del calcio italiano, voglio anche sentire che cosa ne pensate. Il presidente sarà, lo ripeto a meno di ribaltoni, Carlo Tavecchio, che è rimasto in piedi malgrado tutto e malgrado tutti, e che ieri ha visto dissolversi la fronda che puntava a farlo cadere. 800 24 00 24, mai che mi ricordi io un presidente ha avuto così basso consenso tra la gente, gli appassionati, i tifosi. I sondaggi nei giorni scorsi, più del 90% contro la sua candidatura, eppure questa sera Tavecchio sarà presidente. Dario Ricci da Fiumicino, ciao Dario. Ciao Giovanni, grazie della convocazione. Grazie a te. Intanto mi racconti come va la giornata? Beh, giornata frizzante direi, perché tra l'arrivo dei presidenti, le tante voci che già poi avevi fatto sentire, anche il clima di interesse da parte dei colleghi, può essere un ambiente particolare, direi frizzantino, perché nessuno ormai in questo ribaltone ci crede più. Però insomma l'abbiamo visto, delle elezioni strane, non ultima in termini sportivi, quella che ha portato al vertice del CONI Giovanni Malagò, e allora un po' fino al verdetto finale tutto può succedere, anche se di fatto l'elezione di Carlo Tavecchio non ragionevolmente a questo punto non può essere messo in dubbio. Tra l'altro lui costeggia appunto a Porto Costa, proprio perché ha fatto il suo discorsetto pochi minuti fa, ha letto un paio di paginette che insomma aveva sapientemente redatto, diciamo così, più spregiudicato Albertini, che ha provato un discorso a braccio con qualche incertezza, ma insomma ha provato a giocare le sue carte, e staremo un po' a vedere. Sì, non lo fanno più parlare a braccio Tavecchio, del resto quello che è successo in queste settimane giustifica ampiamente una scelta prudente. Cosa succede esattamente oggi? Allora, guarda, in questo momento sono da pochi istanti terminate le dichiarazioni proprio dei due candidati e di tutti i presidenti di Lega. Fra poco andremo alla prima votazione. Ricordiamo che ci sono tre successive possibili votazioni con quorum decrescente, 75%, 66% e 50% più uno dei votanti. Queste le percentuali necessarie per essere eletti presidenti della Federcalcio. Si può arrivare anche in quarta istanza al ballottaggio, ma è chiaro che in quel caso, essendoci un candidato così fortemente favorito si aprirebbe anche un problema politico non indifferente. Quindi ecco, fra poco si inizierà con le operazioni di voto, che dureranno comunque un'ora e mezza, e quindi ecco, anche i vari delegati chiamati al voto avranno tempo di riflettere. Io sono qua con il nostro primo ospite, Giovanni, se poi lo coinvolgiamo subito. Prego. Allora, Francesco Saverio in Torcia della Repubblica. Beh, Francesco, dai, qualche sorrisino ci ha scappato oggi. Rivedere Tonino Matarrese, grande architetto, insieme allo Tito di questa elezione, fa un po' sensazione, dai, diciamo così. Beh, c'è anche Franco Carraro che mi pare sia seduto proprio al fianco di Lotito. Beh, mi pare che nessuno consideri queste elezioni come l'inizio di un'era rivoluzionaria, ma semplicemente come una fase di continuità rispetto alla gestione precedente. Gli interventi dei diretti interessati lo confermano. Direi pure le parole di Gianfranco Abete, no? Che forse si è scagliato più contro il presidente Malagò, contro il CONI, piuttosto che tentare di togliersi quei sassolini dalle scarpe, rispetto ai quali sarebbe stato pure legittimato, visto come è finito la sua reggenza, diciamo così. Beh, Abete i sassolini se li era tolti già nella conferenza di congedo in Federcalcio. In questo momento è evidente che il mondo del calcio è a un bivio, e cioè o elegge un suo presidente oppure rischia il commissariamento, e quindi vuole difendere una propria autonomia, la capacità comunque di nominare un proprio governo. E Abete aveva replicato a Malagò già ricordando i risultati, non tutti ottimi, ma comunque non tutti da buttare, della nazionale. Ha puntato spesso l'accento sul secondo posto all'europeo e anche su quel terzo posto alla Confederations, che per la verità ha scaldato davvero poco i tifosi azzurri, e ha ricordato poi, non in questa occasione ma l'aveva fatto in precedenza, che alle ultime Olimpiadi invernali l'Italia non era riuscita a portare a casa risultati significativi. Sì, quindi non era soltanto un problema del calcio, Dario. Detto che mi sembra che Abete abbia concesso ben poco l'autocritica, mi aiuti a capire con Francesco Saverio in Torcia come si è dissolta nelle ultime 48 ore quella che doveva essere la grande opposizione, quella guidata da Agnelli, da Pallotta, che ha incassato ancora una sconfitta, fotocopia del resto di quello che era già accaduto un anno e mezzo fa ai tempi dell'elezione della Lega. Eh sì, ecco, Francesco Saverio, ci chiedevamo con Giovanni Capuano come mai questo fronte Notab alla fine ha perso i pezzi e, stando insomma alla situazione di questa mattina, si è di fatto dissolto. Come è stato eroso di fatto? Tutto merito di Lotito oppure? Cosa ha promesso? Diciamo innanzitutto che c'è un'anomalia nel sistema, perché il 51% dei voti è assegnato alla Lega Dilettanti e alla Lega Serie C, che da sole hanno un grande potere decisionale. Tra l'altro la Serie C nel frattempo ha cambiato nome, si è ridotta a una sola serie dall'anno prossimo, è passata da 90 a 60 squadre, però conserva questo 17%, quindi in partenza chi vuole giocare per la presidenza deve comunque fare i conti con la Lega Pro e la Lega Dilettanti, quindi un fronte di dissidenti partiva già in minoranza. Era in minoranza all'interno della Lega Serie A, abbiamo visto come si è provato a ribaltare questa maggioranza a favore di Tavecchio, però è evidente che nelle ore che precedono l'elezione del Presidente, nel momento in cui non c'è stata la possibilità di ribaltare la situazione, almeno in Lega Serie A, che avrebbe avuto un valore politico e non numerico, perché Tavecchio poteva andare avanti ed essere eletto ugualmente, è chiaro che club meno forti, meno in vista, che hanno in questo momento l'interesse a avere dei buoni rapporti con gli altri club per ragioni di mercato, per interessi che si intrecciano. Abbiamo raccontato questa mattina come alcune trattative abbiano poi influenzato sia l'eventuale passaggio con i dissidenti, sia il ritorno sul fronte per Tavecchio. Nel momento in cui Tavecchio si avvia ad essere eletto, per una società meno esposta, che non sia Juve e Roma, e che inizialmente aveva appoggiato Tevecchio, insistere in questo dissenso può essere poco conveniente, perché comunque c'è un campionato da affrontare, una stagione, una federazione che avrà comunque questo presidente. E questa è un'altra delle fotografie di dove siamo finiti con il calcio italiano. Poi c'è chi dice: inutile che tirate fuori sondaggi su Tevecchio fatti dopo il linciaggio a mezzo stampa dei soliti giornaloni. C'è chi dice: allo specchio dell'Italia, se a votare c'è Mattarrese, Carraro e tutti gli altri. E poi aspetto ancora i vostri messaggi 349-238-6666, aspetto anche le vostre chiamate 800-24-0024. Traffico. Rispondere con una battuta potrebbe essere quello: la federazione di Tavecchia, la federazione in bianco e nero, la federazione di Albertini, la federazione in HD. Tutti convocati. Abbiamo chiesto questo passo indietro che non si è verificato, e a questo punto siamo costretti a votare. Mi sembra normale che ci riallineiamo sulle posizioni che avevamo preso in Lega tutti assieme il 18 febbraio. Ma è l'uomo giusto per riformare il calcio italiano ed essere il nuovo presidente della Federcalcio? Ah, mi sembra che ci siano poche alternative, e soprattutto dobbiamo sperare che mantenga le promesse che ha fatto, che sono quelle del programma che abbiamo stilato in Lega di Serie A. Intanto Tavecchio ringrazia nel suo discorso le grandi emittenti che si sono schierate anche contro di lui in questa campagna elettorale. 800 24 00 24, qualche voce di questa mattinata. La giornata sarà lunga, ripeto, perché prima di arrivare alla terza votazione, quella che dovrebbe portare all'elezione di Tavecchio, bisognerà probabilmente attendere l'ora di cena. Antonio Mattarrese. Ma Tavecchio è scivolato sulla buccia di banana, ha detto la stupidaggine, no? Ma sa quante volte io pure ho detto stupidaggini? Ma Tavecchio si è espresso male, diciamo, il concetto che lui voleva esprimere era un concetto giusto, cioè, l'ha espresso male, ma comunque è un uomo che sa riconoscere i propri errori, quindi rimedierà certamente. A UEFA e FIFA, come glielo spieghiamo? Che bisognerà spiegare molto a UEFA e FIFA. Voi pensate che la Federazione Italiana deve dare spiegazione a UEFA e FIFA? Insomma, una volta non si davano tante spiegazioni. Io ho parlato con Blatter l'altra mattina e mi ha detto: beh, i concetti che la FIFA ha sempre espresso sono quelli, l'importante è che poi vengano rispettati. E poi Marotta sullo Tito, Marotta. Ma sicuramente è un consiglio molto frammentato, come ho detto prima, e quindi evidentemente non sarà facile attuare le riforme, diciamo, nell'immediato. All'interno della Lega ci si può parlare di due anime. Quello che un po' lascia un po' perplessi dal nostro punto di vista è il superattivismo di un presidente come Lotito, che fa da tutor al candidato Tavecchio, che credo che una cosa sia abbastanza non solo impopolare ma anche unica nella storia della Federazione Italiana. E quindi sembra che ci siano interessi personali a discapito invece di quello che devono essere interessi collettivi per i quali noi agiamo continuamente. E questo era Marotta su Lotito, Juventus che però ha evidentemente perso la battaglia, che non riguardava soltanto la Federcalcio, riguardava anche la Lega, aveva sullo sfondo certamente la più grande partita dei diritti televisivi. Agnelli ha perso, ripeto, è la seconda volta in un anno e mezzo, e anche per questo sarà presidente Tavecchio. Agnelli, che mi risulta, Dario, sia presente a Roma, anche se fino a ieri era in Australia con la Juventus. Guarda, devo dire che nelle mie peregrinazioni in questo immenso hotel non ho avuto ancora modo di incrociarlo. È lì. Ecco, quindi anzi, mi dai una traccia preziosa da seguire. Intanto abbiamo ovviamente incrociato Marotta. E a proposito di Juventus, ne parliamo, una firma di Tutto Sport, Stefano Carina. Beh, Stefano, dicevamo da studio, grande sconfitta. Insomma, a parte che fa sempre un po' sensazione vedere la Juventus all'opposizione, però è la seconda brutta sconfitta che l'Agnelli incassa dopo le elezioni di Lega dello scorso anno. Che scenario si apre in casa bianconera? Ah, penso che per quanto riguarda la Juventus fosse una sconfitta quasi preventivata. A me quello che fa sorridere è stata un po' tutta questa campagna elettorale. Una campagna elettorale che ho visto che c'erano dei giorni dove Tavecchio gli veniva dato un 51%, quando in realtà secondo noi, secondo il nostro giornale, la sua elezione non è mai stata messa in dubbio. Se voi andate un attimo a rivedere le posizioni pre-assemblea di Lega, quando sono stati discussi i diritti televisivi, bene o male siamo tornati lì. Cioè ci si è mossi tanto, si è fatto tanto can-can, la cosiddetta fronda, scusate magari il termine abbastanza forte, dei 9, e poi adesso andiamo a vedere che in Serie A più o meno sono 12-8, 13-7, cioè più o meno siamo come stavamo prima, cioè è cambiato tutto per non cambiare nulla. Ah, strano, questa è un po' la novità, da queste latitudini. Ma infatti è questo che fa sorridere, cioè c'è stato un movimento anche d'opinione contro Carlo Da Vecchio, sono scesi in campo anche importanti quotidiani, ma il calcio ha dimostrato ancora una volta che va avanti per la sua strada. Il problema però secondo me non è né Da Vecchio né Albertini, io tra le altre cose ai vostri radioascoltatori invito magari ad ascoltare anche l'intervento oggi di Albertini, perché abbiamo tanto ironizzato su quello di Da Vecchio, ma andiamo ad ascoltare anche la controparte. Io tra tutte le persone che oggi hanno parlato, secondo me c'era una persona che forse poteva diventare il presidente della federazione, e era Bodi. Forse sarà il prossimo. E magari lo sarà fra due anni. Fra due anni, anche perché non va dimenticato una cosa. No, io non lo so, perché Bodi comunque è una persona che si sta interessando per lo più alla futura poltrona della Lega di A. Cioè io penso che lui ci riproverà e questa volta potrebbe riuscirci. È anche vero che queste sono comunque, non va dimenticato, che sono comunque delle elezioni che portano un presidente a governare, vediamo se governerà, perché un conto è essere eletti, un conto poi è governare, per due anni. Cioè, quindi giusto il tempo di sedersi alla scrivania, capire che succede e fermare due fogli. Sì, magari cambiare anche le regole, che mi pare di capire sia la prima delle riforme che vada fatta, perché fra due anni poi si possa votare in maniera diversa. Intanto io voglio capire, visto che abbiamo detto e scritto tutti comanda Lotito, che cosa sarà di Lotito da domani, se davvero prenderà in mano le nazionali, se sarà lui a scegliere il prossimo CT. C'è chi dice ad esempio che ci sia un veto su Mancini e quindi il prossimo allenatore dell'Italia non saranno né Conte né Mancini, ma potrebbe essere Zaccheroni. Dario, stai lì. Prima Marotta diceva sarà difficile con una Lega spaccata andare avanti. Beh, chi perde dice questo. Quando si sottoscrivono dei documenti non è che poi si possono disattendere dopo due giorni nascondendosi dietro un falso moralismo. C'è qualcuno che ha sbagliato, ha fatto un'uscita veramente grave, ha chiesto scusa, ma se non era messo in discussione prima, perché dovrebbe esserlo dopo. Tanto stanno cominciando a votare, giusto Dario? Sì, stanno cominciando le votazioni, quindi ci muoviamo nei corridoi di questo grandissimo hotel, alla caccia di chi cerca anche pure un caffè, perché qua poi tutta la situazione è svolta proprio in piena ora di pranzo, insomma, quindi il sacrificio dei delegati va anche apprezzato in questa direzione, caro Giovanni. Sì, ci sono stati anche momenti di umorismo, come Macalli che ha detto sono qui senza la badante, quindi sostengo sì, Da Vecchio, però sono venuto da solo. Perché ad esempio l'età di tanti dei delegati che sono lì, a partire da quella di Da Vecchio, è stato uno dei temi anche di queste due settimane di campagna elettorale. C'è chi scrive Alessandra 349-238-6666, mi chiedo come potrà mai cambiare questo disastrato paese se continueremo a privilegiare la gerontocrazia a scapito del merito. Lino da Pavia, Gagliani e Lotito, il nuovo non arriverà mai. Poi c'è chi chiede se ci saranno ritorsioni di Da Vecchio contro Sky, che aveva preso posizione per Albertini. Ricordo che Sky con circa 600-700 milioni di euro sostanzialmente tiene in piedi la Serie A, il calcio italiano, e quindi mi sembrerebbe difficile per un presidente di Federcalcio, che ha comunque poteri limitati, pensare a qualche ritorsione nei confronti di chi tiene in piedi tutto il movimento. Dario, mi dici qualcosa di Lotito e del prossimo CT, o se hai un ospite? Allora, Lotito, chiaramente oggi direi che il perimetro in cui si muove Claudio Lotito, che tra l'altro è molto ampio, proprio perché è il vero vincitore della giornata, l'ha definito bene Tonino Matarrese, ha detto, dicendo a suo modo, una pennellata straordinaria, cioè Lotito ha vinto, è bene che si renda conto che non va bene stravincere. Quindi questo che cosa vuol dire in linguaggio di Matarrese? Vuol dire che a Lotito non verrà assegnata una vicepresidenza operativa con influenza sul Club Italia, proprio per evitare un conflitto di interesse che sarebbe altrimenti macroscopico. Piuttosto rimarrà comunque diciamo operativo, ma nella squadra di Tavecchio, e i vicepresidenti però saranno figure magari istituzionali, potrebbero essere anche Berette Apodi, chissà, molto probabile, questi nomi più caldi in queste ore. Però insomma, che questo è il perimetro in cui si muove Lotito, che anche oggi ha seguito a distanza il suo candidato con grande attenzione, ha parlato il giusto, evitando anche lui di finire in fuorigioco, quindi prudenza e vigilanza, direi queste le due parole da parte, le due parole d'ordine da parte dello schieramento del grande favorito. Ma si è capito entro quanto arriverà il CT? Al CT i tempi sono strettissimi, no? Anche lì praticamente ha dato la conferma a Matarrese, perché ha parlato al presente di Antonio Conte, ha detto che tra Tavecchio e Conte sarà un bel confrontarsi di due bei caratteri, quindi direi che sul nome, stando a quello che si è detto oggi, ci sono poche incertezze, e sui tempi penso che sarà la prima cosa che dovrà annunciare il presidente eletto. Non credo che arriveremo a dire oggi il nome, ma potrebbe anche essere il primo cadeau, Sì, potrebbe essere qualcosa che arrivi, io credo, prima di Ferragosto. Ricordiamo, 4 settembre c'è l'amichevole contro l'Olanda, 1 settembre l'Italia deve radunarsi. Restano al massimo un paio di settimane per preparare quella partita, che poi porta al primo impegno delle qualificazioni europee, e dunque il tempo è poco. Ciao Dario, ci risentiamo se cambia qualcosa. A dopo. Ciao Dario, Lotito. Mi pare che c'è una maggioranza solida da parte di coloro che hanno mantenuto un impegno che avevano assunto con una delibera. Io vorrei ricordare a tutti che il programma è stato votato all'unanimità da tutte le squadre, che l'indicazione di Tavecchio è stata votata con 18 voti favorevoli e 2 voti contrari, con sottoscrizione delle singole società con nome e cognome del legale rappresentante, che nella fattispecie erano i presidenti. La nostra posizione è quella della riforma del sistema, perché riteniamo che il sistema non sia più autoconsistente, necessita di una rivisitazione totale, che deve essere fatto in forma condivisa e non consociativa da parte di tutte le componenti. C'è chi scrive: a me Tavecchio non piaceva, ma dopo che Agnelli e la Juve lo hanno contestato mi è diventato simpatico, spero venga eletto. Questo è Paolo da Parma. C'è Antonio che dice: si sono divisi secondo le schiere dei diritti televisivi, sì, perché c'è anche tutta la partita dei diritti televisivi dietro questa difficile campagna elettorale che ha portato al voto di oggi. E lo ripeto, questa sera intorno all'ora di cena la Federcalcio avrà un presidente e sarà Carlo Tavecchio. Mi piace. 800 24 0024 Borsa. Ma Albertini, come dire, fa un po' come Fedro con l'uva. Al di là di tutto, quello che conta è che Tavecchio venga eletto anche con voto, e verrà eletto in modo matematico. Tutti convocati. 800 24 0024 c'è chi scrive: ma la sorpresa di Malagò dov'è? Saranno le dimissioni del presidente del CONI appena eletto Tavecchio? No, io credo che Malagò si attendesse una fronda più consistente. 800 24 0024 cominciamo da Barletta. Antonio. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo solo intervenire per chiedermi come mai anche nel calcio, come in tutto il resto dell'Italia, non si riesce a dare una svolta decisiva, confermando di nuovo il vecchio che avanza, diciamo. È perché è così, perché io credo sia sufficiente dare un'occhiata alla sala di Fiumicino, dove oggi si regge il presidente della Federcalcio, per capire che il mondo del calcio italiano è ancora lì. Ha ragione secondo me Olivieri, che comunque non è un ragazzino, a dire: è difficile pensare di affidare le riforme, il nuovo, la rinascita del calcio a chi ha avuto le chiavi in mano negli ultimi 20 anni. Ha ragione lui, però da questo punto di vista anche Albertini aveva 8 anni di vicepresidenza alle spalle, e quindi certamente aveva una responsabilità importante in quelli che sono stati gli errori in questi ultimi anni che ci hanno portato fino a qui. Mario da Torino. Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno, ma la mia riflessione su questa elezione è che in questo momento c'è uno scontro tra la democrazia, cioè quello che esprime il voto, e quindi Tavecchio, è il sentire comune. Il sentire comune, probabilmente Tavecchio non lo elegge come una persona particolarmente sensibile ai momenti che stiamo passando. Bisognerà, secondo me, prima di arrivare a fare un raffronto politico con quello che è successo con Renzi, fare una transizione in qualche modo che porti il mondo del calcio ad autogestirsi, e poi verrà eletto un presidente di garanzia più giovane, più moderno, più un modello Renzi. Probabilmente in questo momento nessuno di quelli che va a votare è in grado, o comunque ha un rappresentante che riesca a esprimere una unione comune, o comunque il mondo del calcio in questo momento è ancora talmente grasso e talmente pieno di sé che pensa di risolversela al suo interno. Non c'è grandi spiegazioni da questo punto di vista, secondo me. Cioè, se questa persona democraticamente verrà eletta, prenderà il 51% dei voti, e c'è su 278 persone che lo votano, ce ne sono 170 che lo voteranno, vuol dire che lui è una persona che rappresenta il mondo del calcio. Questa persona rappresenta il mondo del calcio. Effettivamente, Carlo Tavecchio rappresenta alla perfezione quello che è oggi il mondo del calcio italiano, nel quale, Mario, sottolineo, fatico a vedere la figura di qualcuno in grado di rottamare il vecchio. Probabilmente non lo era Albertini, o probabilmente non lo era con la forza, il coraggio di chi, ad esempio, nel mondo della politica ha scalato dal basso un partito per arrivare fino a Palazzo Chigi. Questa operazione ad Albertini non è riuscita. Gianfranco da Pesaro. Gianfranco. Sì, salve, prego. Buongiorno. Ma io non vorrei entrare nel merito, perché per me tutti e due sarebbero si dovrebbero fare da parte. Dico solamente che con che spirito si andrà a squalificare una curva, poi, che magari avrà dei incitamenti contro Balotelli o qualche altro colored, quando un tal vecchio si è espresso in questa maniera e non si è fatto assolutamente nulla. Questa è una domanda interessante, l'hanno posta in tanti, l'ha posta anche Demetrio Albertini nelle ultime ore. Staremo a vedere, ho l'impressione che sarà comunque sempre facile squalificare la curva, perché di Tavecchio resterà che si è scusato, è stata una gaffe, come in tanti giornali hanno scritto a lungo prima di prendere posizione, e non quello che è stato, e cioè una frase assolutamente inaccettabile. Per fortuna si è anche giocato nelle ultime ore. Aldo Serena, ciao. Ciao a tutti voi. Migliorare, siamo in fase di preparazione, però ci sono state delle cose negative, ci sono state delle cose positive. Innanzitutto stiamo tutti bene, questo è importante. Poi la squadra, insomma, ha avuto anche una buona reazione, ha cercato anche la vittoria, perché anche quando giochiamo l'amichevole credo che vincere aiuta a lavorare meglio, con più serenità. Come regalo di compleanno era allenare il Milan, in realtà un bel regalo ti è arrivato. Sì, no, sono molto contento, però insomma, ho già parlato ieri, adesso oggi mi godo la giornata. Sicuramente il Milan sta facendo le cose al meglio e io mi auguro di fare bene insieme alla squadra. Quanto è importante un portiere come Diego Lopez? Ma è molto importante, perché è un portiere d'esperienza, per cui va a migliorare la nostra rosa. E niente, andiamo avanti. Sappiamo tutti che Francesco è un fuori classe, uno dei migliori, ma abbiamo bisogno di tutti, di Francesco e di tutti gli altri. Medina per me non c'è neanche una domanda o un'interrogazione su lui. Ha, mi sembra, ancora 4 anni di contratto e basta. La semplicità con cui segna Giuseppe Rossi è impressionante. Sì, sembra facilissimo, no? Ma è per lui che è così. Lui con questa qualità fa tutto più semplice, ma è veramente difficile quello che fa e come fa le cose. No, per fortuna si gioca anche al Dito Serena. Ciao Aldo. Ciao a tutti. So voi. Che sei reduce dalla Juventus nella seconda delle sue partite, quella in Australia, vinta sì, soffrendo. Ti piace la Juve di Allegri? Ma io credo che sia arrivato in punta di piedi Allegri, abbia le sue idee e le tenga per ora anche un po' nascoste, stia cercando di far andare con il pilota automatico la Juventus, che dopo i 3 anni passati con Conte ha sicuramente automatismi oramai collaudati, e ogni tanto cerca di personalizzarla con timidezza, con qualche tocco, ma secondo me fa bene a far questo, perché uno stravolgimento già all'inizio sarebbe rischioso. Sì, poi c'è qualche problema dietro, ieri abbiamo visto Bonna sinceramente in difficoltà, ma anche Bonucci, tutte difficoltà che evidentemente confermano come alla Juve probabilmente serva un nuovo difensore centrale, si sta muovendo sul mercato, però è lì che probabilmente la Juventus deve intervenire per rendere un po' più solida la sua rosa. Beh, devo dire che il recupero di Barzagli sarebbe importantissimo, non si sa quando rientrerà e in che modo riuscirà a dare qualità alle proprie prestazioni, perché Barzagli è stato un caposaldo della Juve di Conte. Fa fatica Ogbonna, secondo me sono dei limiti forse di personalità, perché sotto profilo atletico, tecnico, è un giocatore che potrebbe inserirsi benissimo in questo gruppo bianconero. Lo scorso anno ha avuto qualche opportunità, non molte per la verità, però non le ha colte, e adesso che ha giocato anche un po' con continuità, un po' anche per la preparazione, perché non solo quei due che hai nominato tu ieri hanno fatto fatica nei primi 30 minuti, ma un po' tutta la squadra, ad eccezione di Pogba e di Lichtsteiner. Anche i due d'attacco verso primo tempo, gli Orienti e Tevez, hanno cominciato a sciogliersi un po', e io comprendo, capisco che quando si lavora sulla forza la brillantezza si allontana. Dopo, ecco, alcuni sono usciti alla distanza, però ecco, Bonna è rimasto indietro. Sì, stasera poi vediamo il Napoli contro il Paris Saint-Germain, ieri c'è stato uno sprazzo di Roma, abbiamo visto la Fiorentina che comunque continua a vincere, c'è l'Inter che ieri ha perso la prima partita vera del suo precampionato, ha preso 3 gol in 12 minuti, hai l'impressione che sia cambiato qualcosa nelle gerarchie, la Juve resta sempre un passo avanti, gli altri si sono avvicinati? La Juventus resta un passo avanti, la Roma è lì pronta secondo me a dar battaglia per vincere lo scudetto, e dipenderà molto dalle sirene della Champions League se saranno forti nelle loro chiamate. Ecco, gestire entrambe le competizioni per chi non è più molto abituato a farlo come la Roma potrebbe essere difficile, ma io credo che queste due squadre lotteranno per vincere lo scudetto. L'incognita un po' è quella del Milan, che non ha le coppe, quindi Inzaghi può lavorare bene, non ha però, ecco, secondo me una rosa di altissima qualità, però Pippo potrebbe anche riuscire, avendo a disposizione tutti i giorni i propri giocatori e giocando una volta alla settimana, lo spazio e il tempo per poter portare in alto il Milan. Sì, cantiere aperto con mille incognite, la prima credo sia quella di Balotelli, io non so se tu sei del partito di chi ritiene che Balotelli sia comunque meglio cederlo da qui alla fine del mercato e puntare su qualcosa di diverso, o se in qualche modo possa essere una risorsa per questo Milan. Ma io penso che il Milan come società sia alla finestra, che non ci sono state probabilmente offerte tali da poter prendere in considerazione la cessione di Balotelli, altrimenti secondo me lo avrebbero fatto. Balotelli è una risorsa economica del Milan, e quindi io penso che la società cerchi di tenere alto il valore di questo ragazzo che non è conosciuto, perché ecco, dare un valore a Balotelli è veramente difficile, ha qualità enormi, estreme, bravissimo, come anche ha delle carenze altrettanto gravi, quindi io penso comunque che il Milan, se al Milan fosse arrivata un'offerta di un certo tipo, Balotelli sarebbe andato. Sì, ti piace Diego Lopez? È un portiere forte, ha quasi 33 anni, gli hanno fatto 4 anni di contratto, perché poi la perplessità è tutta lì, non tanto sul valore di un portiere che l'anno scorso comunque è stato titolare con Ancelotti, lo è stato l'anno prima con Mourinho, e quindi certamente è un buon portiere. È un buon portiere, il Milan ne aveva bisogno, perché Agassi non è riuscito a dare subito quella sicurezza abbiati a gli anni che ha, e credo che la dirigenza rossonera prima di acquistarlo abbia anche telefonato a Ancelotti e abbia un po' approfondito il discorso con l'ex tecnico rossonero, sì, per chiedere le referenze. Sì. Per chiedere le referenze. Grazie Aldo. Ciao a tutti voi. Grazie Aldo Serena. 800 24 0024 traffico. Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. torni a Napoli, cosa rappresenta per te tornare in quella città? Secondo te che rappresenta per me? Che è una cosa bellissima, sinceramente ho tanta voglia di arrivare, stare lì, di visitare quella città che abbiamo vissuto dei momenti indimenticabili, bellissimi. Io credo che il calcio tante volte non ha memoria, però va bene, io credo che il vero tifoso è quello che magari ha vissuto dei momenti speciali insieme alla squadra di quei momenti, di quei tempi, io credo che riconoscerà un pochino le cose. Che bella sei! Ti verrà magari qualche lacrima, tu non sei uno che piange, magari qualcosa ti scende. Non si sa mai. Le emozioni io credo che quando devono arrivare arrivano all'improvviso, così, all'imprevisto e quando meno te l'aspetti, quindi sinceramente io quello che sento oggi è che per me sarà una felicità grandissima tornare in quella città. Dopo, arrivato là, si vedrà quello che chi provocherà. Tutti convocati. 800 24 00 24. Mirko da Viterbo. Mirko, ciao, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Complimenti per la radio in generale. E niente, io volevo intervenire per quanto riguarda appunto l'elezione del nuovo presidente della FIGC. E vabbè, a parte il discorso che dovremmo svecchiare il paese, non ce la facciamo a farlo. Diciamo che la mia idea era questa: cosa ve ne pensate voi di tornare a una Serie A 18 squadre? Secondo me, credo che il livello qualitativo sia del gioco che dell'organizzazione, che anche un ritorno a cercare di fare competizioni europee che poi dopo serve per il ranking, possa dare una mano. Che ne pensate? Io penso che sarebbe una delle soluzioni, però sia chiaro che non è che portare la Serie A 18 squadre risolva i problemi. Deve essere chiaro che in Inghilterra giocano con 20 squadre, che in Spagna giocano con 20 squadre, che quindi non è quello il problema. Certamente potrebbe aiutare ad avere calendari più sensati dal punto di vista degli impegni, e questo può certamente aiutare, oltre al fatto che probabilmente in Serie A negli ultimi anni sono arrivate squadre che qualitativamente non meritavano di esserlo, però è un pezzo della soluzione del problema, non è la soluzione. Mirko, Franco da Venezia. Franco. Sì, eccomi anch'io, scusa, volevo intervenire. Prego. In merito all'elezione del nuovo presidente. Ma forse io fatico a comprendere tutto questo senso del coinvolgimento che c'è all'interno di una struttura che diciamocelo chiaramente, insomma, è una struttura fatta di società per azioni, quindi un gruppo di iniziative private che si eleggono un loro presidente. Lo scandalo casomai è che, scandalo, se di scandalo si può parlare, insomma, l'incongruenza è che sia il CONI a finanziare tutto questo baraccone. Cioè, voglio dire, è un'iniziativa privata, facciano quello che devono fare. Sì, non è solo un'iniziativa privata però, Franco, perché dentro quel mondo ci sono anche milioni di tesserati che sono dilettanti, ci sono società che non sono società per azioni, che non hanno alle spalle grandi gruppi, ed è anche uno dei motivi per cui, ad esempio, quando poi si va a votare, la Lega Nazionale Dilettanti, che è l'espressione di questo, del calcio femminile, del beach soccer, ha il 34% dei voti. Non è tutto soltanto Serie A, quella è la Lega Calcio, la Lega di Serie A, la Federcalcio, è qualcosa che poi garantisce anche l'attività calcistica minore, anche quella che si fa nelle piccole società dove tanti ragazzi iniziano a giocare, ed è per questo che poi è un tema che interessa tutti. Usciamo però un po' da questo. Ieri abbiamo visto, ammesso che servisse una conferma, un vero fenomeno. Per la prima volta sotto grande pressione Marquez, ma ancora una volta Qatar, Texas, Argentina, Erez, Le Mans, Mugello, Catalogna, Assen, Sachsenring, Indianapolis. Marc Marquez, 10 di fila, Jorge Lorenzo secondo, sul podio, terza piazza per il dottore Valentino Rossi. Abbiamo fatto una vera lotta all'inizio, no? Con Valentino, con Andrea anche era là, Jorge. Ma mi è divertito soprattutto alla fine perché si volava tantissimo, ma ho visto che Jorge stava spingendo tanto e così ho provato di fare il 100%. Comunque è stata una gara bellissima. dura fisicamente, ma adesso già questa notte festeggiamo un po' e domani Brno, che è la prossima settimana. Io non amo la corsa ai record, però quello che ha fatto ieri Marc Márquez, 10 vittorie di fila nelle prime 10 gare di questo mondiale, ovviamente riporta agli anni 90 Mick Doohan e soprattutto a Giacomo Agostini, 3 volte nel 68, nel 69 e nel 70. Ciao Giacomo. Ciao, ciao a tutti voi. Tu ami la corsa ai record? Qui record ormai oggi, cioè, record dappertutto. Quanto vale quello di Márquez? Beh, insomma, Márquez si è meritato anche questa vittoria, sta guidando veramente bene, quindi indipendentemente che abbia vinto ieri, anche se non è sempre, sta dimostrando di, grande, di essere lui l'uomo da battere, insomma. Ti senti come se ti avessero portato via qualcosa, un pezzettino della tua leggenda, della tua carriera? No, perché se lo merita. E poi dirò che di questi record effettivamente è venuto fuori da poco tempo, perché non si pensava che 10 di fila fosse un record, ecco. Difatti, però insomma è sempre una cosa molto importante, cioè vincere 10 gare guida sempre al 100%, che c'è anche qualche problema di linea. Adesso proviamo a recuperare Giacomo Agostini sui record di Marc Márquez. Intanto c'è Nazareno da Roma. Nazareno. No, volevo dire, ma lei, prego, crede che per quanto riguarda l'elezione di Tavecchio, se non ci fossero stati questi grandi dissidenti, lui sarebbe stato eletto? Non è una manovra questa, secondo lei? Guardi, il 24 luglio Tavecchio godeva del 70% degli appoggi, poi c'è stata la frase sui giocatori extracomunitari, sui mangiabanane, il suo consenso è crollato, è sempre stato, come ci raccontavano prima gli inviati da Roma, comunque al di sopra della linea del 50% più uno, quindi io non capisco quale possa essere stata la manovra degli altri per fare eleggere Tavecchio. Mi sembra semmai che ci abbiano provato, ma evidentemente con minore capacità rispetto a chi, Lotito per primo, Gagliani per secondo, ha invece tenuta ferma la barra per provare a fare eleggere Tavecchio. Però io altra manovra non trovo. Vediamo se abbiamo recuperato Giacomo Agostini. Giacomo? Eccoci, ieri un po' di sofferenza di Márquez, forse per la prima volta in questa stagione. Cioè, non ho capito, che ha sofferto Márquez? Ma ieri qualcosina, insomma, 10 giri dietro a Valentino, comunque Lorenzo gli è arrivato attaccato. Non è partito per primo, quindi è stato bravo e giusto lasciarli sfogare, lasciare che i primi giri sono sempre molto pericolosi, quindi ha lasciato che le cose si mettessero a posto e poi ha dimostrato, come sempre, insomma, che quando vuole li prende e se ne va. Quanto c'è di Márquez e quanto della Honda dietro il dominio di quest'anno? Beh, sai, è sempre stato così, nel senso che il grande pilota va con la grande moto e la grande moto va con il grande pilota, il binomio, ci deve essere un binomio per poter vincere, quindi ha una grande moto, lui si trova con questa moto, lui è bravo, non più inutile che ormai lo continuiamo a ripetere una cosa così, lui è molto bravo e ha una moto fantastica e quindi riesce a fare quello che fa un grande talento, insomma. Sì, impressione a ricordare che 2 anni fa di questi tempi Márquez non correva nemmeno nella MotoGP, ha costruito tutto quello che ha costruito a partire dal titolo mondiale vinto l'anno scorso al debutto in un anno e mezzo di carriera, il che fa immaginare che sia destinato a riscrivere un po' tutti i libri dei record. Beh, difatti si è capito l'anno scorso, primo anno in MotoGP, vincere come ha vinto lui ha impressionato tutti, quindi quest'anno si sta ripetendo, quest'anno ha più esperienza naturalmente, quindi rischia come l'anno scorso, però va più forte, perché questo lo aiuta, insomma, quindi sai, un anno in più in MotoGP è importante. E naturalmente è su una grande autostrada e senz'altro parleremo ancora tanto di lui. Sì, ti è piaciuto Valentino ieri? Sì, molto, è stato bravo anche lui, è stato bravo Lorenzo, hanno fatto una grande gara, Valentino è partito molto bene, quindi aggressivo, insomma hanno voglia anche sia Valentino che Lorenzo hanno voglia di andare sul primo gradino del podio, solo che questo ragazzino mascalzone non glielo permette. Sì, c'è chi scrive, Giulio, perché va avanti a 35 anni Valentino Rossi, o prende una onda o è meglio che si ritiri, ma in generoso. Ma direi che ieri una Yamaha, la Yamaha che è arrivata seconda è arrivata a un secondo e mezzo, quindi dico un secondo e mezzo dopo 120 chilometri, direi è proprio niente. Poi vediamo l'altra Honda che non ha vinto, quindi la Honda è sempre Honda, anche quella di Pedrosa, però non vince, quindi come dicevo prima, il binomio ci vuole la moto, ci vuole il pilota, la Honda c'è anche con Pedrosa, però non riesce a fare quel che fa con Marquez, quindi direi che fortunatamente in moto il pilota conta ancora abbastanza, ecco, rispetto alla Formula 1 che forse il pilota conta molto meno con tutte queste elettroniche, tutti questi comandi che hanno dei box che li fanno andare forte, piano, li diminuiscono, accelerano e tutto, insomma. Sì, fortunatamente la MotoGP è ancora uno sport dove conta anche l'aspetto umano. Grazie Giacomo. Grazie a tutti voi, ciao. Ho fatto una partenza alla Ron Aslam e ho goduto. Perché poi dopo uno quando diventa vecchio bisogna che impara a partire, se no è più difficile recuperare. Bellissima gara, purtroppo alla fine Mark andava un po' di più e anche Jorg aveva qualche decimo, riuscivo a guidare meglio in 2-3 punti, però sono molto soddisfatto perché questa è una pista difficile per me, era dal 2008 che non salivo sul podio e quindi sono contento. Giancarlo dalla provincia di Arezzo, Giancarlo. Sì, salve, buongiorno, complimenti. Prego. A tutti e complimenti a Marc Marquez da motociclista. È davvero un mostro. È davvero, davvero, davvero, davvero. Tra l'altro si corre anche nel prossimo fine settimana e quindi in realtà il libro dei record andrà, io credo, rapidamente riaggiornato perché Marquez ha eguagliato le 10 vittorie di Doohan e di Giacomo Agostini. Ho l'impressione che lunedì prossimo saremo qui a raccontare dell'11ª vittoria e quindi di un vero e proprio record. Può darsi, a Bruno Valentino è sempre andato molto forte, ha vinto 7 volte mi sembra, quindi diverso anche lui. Prego Giancarlo. Nulla, io mi volevo intromettere nella discussione sull'affare, diciamo, Tavecchio Albertini, e mi intrometto con molta tristezza, diciamo che ho abbandonato il mondo del calcio da appassionato perché visto le ultime vicende negli ultimi anni dove è sprofondato il calcio. Veramente nulla, non lo guardo. Se guardo il calcio straniero. Detto questo, io mi chiedo: forse è utile, possibile, non lo so, fare una moratoria, un'azione forte? Perché a mio avviso, d'accordo alla democrazia, i voti che Tavecchio porterà nel suo. D'accordo, però. In un altro paese, mi chiedo, in un'altra situazione, le frasi di Tavecchio lo avrebbero messo comunque sia in pista per andare a ricoprire un ruolo così importante? E mi chiedo io, le soluzioni naturalmente non lo so quali sono, se la Serie A 16, se diminuire i costi anche di tutti, ritornare a dei prezzi accettabili, non lo so perché... Sì, io credo Giancarlo che in un paese che non fosse l'Italia le frasi di Tavecchio avrebbero incenerito la sua candidatura praticamente in tempo reale. Poi lo ripeto, mai come questa volta un presidente di Federcalcio diventerà tale con un consenso così basso tra la gente, i tifosi, gli appassionati. Questo sarà certamente un ulteriore elemento di distacco tra gli italiani e il mondo del calcio. C'è da sperare che abbia ragione il presidente del CONI, Tavecchio, uno dei pochi che il programma di Tavecchio l'ha letto e che ha detto si tratta comunque di un ottimo programma, ha 2 anni per metterlo in atto e si spera di avere da subito qualche risposta a partire dalla scelta del commissario tecnico, tema di cui credo parleremo a partire da domani, o Conte o Mancini o Zaccheroni o Guidolin. Grazie a Fabio Cantadori in regia, ci sentiamo domani. Regalo di Ferragosto è Tarabt. Adesso vediamo, ciao ciao ciao ciao ciao ciao, ciao Pippo, auguri, ciao.